A parità di editore, lui può riscuotere e continuare a dirsi libero scrittore, mentre se riscuoto io sono un venduto. Lui vende libri, io vendo giornali. Lemminghi stess, che poi vuol dire non è mica lo stesso? No, non è lo stesso. Perché? Perché lui è lui. Insomma, un Feltri molto polemico, c'è pagina 3 del giornale, Marina Berlusconi dà lezioni di libertà a Saviano, c'è un Luigi Mascheroni molto incattivito con Saviano, dice qualunque cosa faccia si deve elogiarlo, se non è criticabile. Insomma, il dibattito è questo e ferve molto anche su internet, se stare con Berlusconi o con Saviano. Dobbiamo, credo, chiudere. Abbiamo un minuto e dunque la segnalazione finale del Sole 24 Ore. Come detto, ci sono le pagelle dei tribunali stilate dal Ministero, dove si lavora di più, dove si lavora di meno. Andate a leggerlo a pagina 5. Prendete il Sole 24 Ore. Foggia è il numero di fascicoli più alti chiusi per magistrato, 1202 fascicoli, poi Bari, poi Velletri, poi Sanremo. Agli ultimi posti invece Trapani, Nicosia, Caltanissetta, Mistretta, e ci sono anche le interviste, insomma. Stakhanov lavora a Foggia, ma le pendenze non calano, e invece la coda, insomma, chi sta meglio e chi sta peggio, analizzati con tutta la classifica dei tribunali dove si lavora di più e meglio e di meno e peggio sul Sole 24 Ore. È l'ultima segnalazione di oggi, vi ricordo il sondaggio, andate a votare. Allora, Berlusconi o Fini? State con Berlusconi o con Fini? Le 8 e 18 minuti, rientriamo in diretta e torniamo con Deborah Rosciani, finalmente l'economia. Soldi e dintorni. Eccoci Deborah, fa strani buongiorno, segnali. Buongiorno, sono Eccoci. In assetto di guerra stamattina perché vorrei reintavolare con te la nostra discussione sul nome del vulcano islandese. Ejafjallajökull, che nessuno al mondo pronuncia. E vorrei ben vedere, scusami, senti tu che pronuncia islandese che ha. Dai, fammela sentire questa allora, perla. No, perché mi ha scritto l'ascoltatrice dicendo complimenti, siete gli unici, sono l'unico a citarlo, in questo groviglio. Che indomito che sei, ci ha mandato l'audio trovato su Wikipedia. Di come si pronuncia in realtà questo vulcano. Non vedo l'ora, ti prego. Allietami. Sentiamo questo groviglio di consonanti, poi devi ripeterlo. Sì. Sentiamo. Non è possibile. No, ha trovato una cosa qualsiasi sul web e ce l'ha mandata. Peter, l'ultima volta. Sì, è proprio Ejafjallajökull. È proprio uguale. Massimo, andiamo un po' invece a tutte le persone che in questi giorni si sono trovati in questa emergenza del vulcano islandese, perché come sapete c'è stato il blocco radicale di tutti i voli in Europa. Da oggi si riprende un po' di normalità, da stamattina spazi aerei in Italia riaperti di nuovo, e però ancora, come dire, lo strascico dei disagi si fa sentire, perché ci sono state molte persone che naturalmente in questi giorni hanno dovuto trovare delle alternative per spostarsi, per raggiungere le località che dovevano originariamente raggiungere. Avete sentito anche nel servizio del giornale radio della nostra Roberta Pellegata di Trenitalia, che per esempio ha bloccato le prenotazioni fino al 23 aprile. Questo accadeva ieri, appunto, la notizia che gli è stata data ieri a Milano. Alitalia ha fatto sapere che occorrerà riprenotare tutti i voli che sono andati perduti durante questi 4 giorni. C'è tempo fino al 30 maggio. I passeggeri, dice la compagnia italiana, potranno optare per altre destinazioni oppure per il rimborso. Ecco, il tema del rimborso è molto importante, perché ovviamente in queste ore molte decisioni da parte di molte persone saranno state prese in maniera magari un po' convulsa, e quindi magari qualcuno di andare al banco della compagnia di bandiera si sarà dimenticato così del tentativo di andare subito a cercare un'alternativa per capire comunque. E allora stabiliamo un po' quali sono le regole di base per ottenere il rimborso, cosa ci aspetta in frangenti di questo tipo, cosa potrà accadere per chi magari ha fatto scelte diverse, se è riuscito a partire in maniera diversa nelle ultime ore. Allora, chi ci aiuta? Come al solito il nostro esperto sulle tematiche delle garanzie e le tutele per i passeggeri di qualsiasi tipo di mezzo, l'avvocato Vittorio Bonaguidi, legale di Telefono Blu SOS Consumatori, avvocato giusconsumerista. Avvocato Bonaguidi, buongiorno e bentornato a Soldi e Dintorni. Giorni. Buongiorno a voi. Allora, bisogna subito dire, e questo è stato riportato con grandi particolari su tutti i giornali in questi giorni, ma magari molti non avranno avuto le condizioni emotive per fare un controllo adeguato, tutto è correttamente stabilito dalla Carta dei diritti del passeggero. Tanto per cominciare, per chi ha perso, ovviamente per causa di forza maggiore, il volo, a che cosa ha diritto, avvocato? Allora, la normativa di riferimento è, come al solito, il regolamento europeo del 2004. Prevede due ipotesi, quindi l'assistenza prevista dall'articolo 8, che è quella del rimborso del biglietto, oppure l'accettazione di un volo alternativo, quindi la possibilità di volare ulteriormente e senza alcun prezzo aggiuntivo. Quindi la compagnia è impegnata e onerata a fornire questo servizio gratuito. Certo. In sostituzione. Oltre naturalmente a tutta, come dire, l'assistenza di base, no? Per gestire l'emergenza, perché chiaramente queste persone sì, sono dovute rimanere sì, a bivaccare negli aeroporti per molte ore. Assolutamente sì, quindi pasti, bevande di prima necessità, anche delle telefonate eventualmente, oppure delle comunicazioni tramite email, fax, telex, ecco, sicuramente nei periodi successivamente immediati all'accaduto. L'altro aspetto molto importante che ci tenevo a sottolineare è che l'obbligo di informativa, ecco, grava proprio sulle compagnie aeree, quindi sono le compagnie aeree, o erano in questi frangenti passati di questi giorni, di queste ultime ore, le compagnie aeree che dovevano informare i vari viaggiatori della situazione passo per passo, ecco, quindi è molto importante questo aspetto. Certo, ciò che non è dovuto, su questo bisogna essere molto chiari, è il risarcimento dei danni, cioè quello che aspetta ad un passeggero che ha perso il suo volo a causa del blocco dell'aereo, naturalmente per il passaggio di questa nube di polvere, quindi è solamente il risarcimento del prezzo del volo, ma nessun tipo di risarcimento di indennizzo aggiuntivo spetta, avvocato. Su questo bisogna essere molto chiari, proprio perché le compagnie ovviamente saranno altrettanto chiare su questo. Certo, bisogna essere chiari, era il terzo capitolo, ecco, chiamiamolo così, cioè il diritto alla compensazione pecuniaria, cioè l'indennizzo, il risarcimento per meglio dire e comprenderci, non è dovuto in questa situazione. Perché? Perché è una situazione che appunto il regolamento europeo definisce come eccezionale, quindi è dovuta a circostanze meteorologiche estremamente appunto eccezionali, singolari, e quindi in questo caso il risarcimento non è dovuto. Le altre forme invece che abbiamo visto di indennizzo, se così vogliamo chiamarle, anche se improprio, sono assolutamente dovute, quindi il rimborso del prezzo del biglietto oppure il volo alternativo. Certo, allora è chiaro che se uno sceglie un volo alternativo, magari in queste ore avrà deciso di rimanere in aeroporto e quindi prendere il primo volo utile. Nel caso invece in cui il passeggero abbia optato, avvocato Bonaguidi, per il rimborso pecuniario, no? E quindi magari riprendersi questa somma per magari andare a prendersi un altro tipo di mezzo per raggiungere la località che doveva raggiungere, ecco, in questo caso i tempi generalmente lì sono molto stretti, il rimborso, come dire, la compagnia lo deve dare seduta stante immediatamente, anche perché immagino ieri le lunghe file che possono essersi formate, o l'altro ieri agli sportelli delle compagnie presso gli aeroporti, per tutti coloro che volessero appunto il cash, secondo lei? Allora, questo in genere è conseguente anche alle operazioni, all'evolversi delle operazioni di rimborso, quindi agli sportelli piuttosto che sostanzialmente con altri che funzionano con altri mezzi. Quindi la compagnia è obbligata a rimborsare immediatamente. Con quelli immediatamente non c'è altra giustificazione che si può dare, lo dice il termine, quindi poi è evidente che magari ci può essere qualche piccolo ritardo dovuto alla situazione, appunto all'evento eccezionale, però la compagnia deve risarcire con tempestività massima. Certo, no, perché stavo immaginando anche il caso di chi ovviamente nella fretta, non immaginando di che tipo di paralisi si stava registrando sui cieli di mezzo mondo praticamente, magari visto che il suo volo non partiva, è partito dall'aeroporto, ha cercato di raggiungere la prima stazione ferroviaria raggiungibile e quindi ha tentato di partire, magari immaginando di fare la richiesta di rimborso in un secondo momento, però ecco, su questo passaggio forse è bene stare attenti, non vorrei che qualcuno avesse anche perso questo diritto proprio per la fretta. No, magari... ecco, no, io lo direi con chiarezza, non ha perso alcun diritto, non c'è un termine entro il quale il viaggiatore deve denunciare l'accaduto, perché non c'è nulla da denunciare, cioè il diritto, ecco, è quello che si diceva prima, l'informazione sull'evento eccezionale era un onere della compagnia aerea e lo è, e quindi sostanzialmente il viaggiatore deve rivolgersi in un secondo momento, maggiormente tempestivo che deve essere, senz'altro, però si rivolge nei giorni successivi anche, benissimo, ecco, se non riesce immediatamente. Allora, magari su questi punti ci studieremo ulteriormente, daremo anche ulteriori indicazioni più, perché magari immaginiamo che tutti saranno un po' in giro in queste ore e tutti coinvolti in questa emergenza magari non staranno ascoltando, forse adesso Radio 24, e gli diamo un altro appuntamento allora a queste persone. Alle 12.15 Salvadanaio ritornerà di nuovo su questi argomenti e cercheremo di fare chiarezza anche a coloro che magari hanno perso un intero pacchetto turistico. Sentiremo gli operatori del settore, che cosa ci dicono e come intendono gestire queste situazioni, anche perché per loro è stato, come dire, un tracollo economico molto importante. Già qualcuno ha dichiarato di voler chiedere lo stato di calamità, gli addetti ai lavori hanno parlato di una vera e propria catastrofe, lo possiamo immaginare. C'è anche un altro aspetto interessante, anche su questo andremo a Salvadanaio alle 12, chi ha dovuto buttare via giornate di lavoro in questi giorni, come ci si deve comportare con l'azienda. Allora, Avvocato Bonaguidi, con lei ci risentiamo alle 12.15, naturalmente a Salvadanaio, dopo. Volentieri, buongiorno. Buona giornata, a dopo. Alessandro, quindi ho già lanciato la mia trasmissione e ciao. Ti lascio col vulcano. E allora, noi parliamo di un altro vulcano, il PDL, insomma le tensioni all'interno del partito di maggioranza tra Berlusconi e Fini. Il nostro sondaggio è questo: con chi state, con Berlusconi o con Fini? Chi ha ragione, Berlusconi o Fini? Sono le 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: è riaperto stamattina lo spazio aereo italiano, almeno metà dei voli dovrebbe essere assicurato, ma l'Europa resta divisa in due a causa della nube di ceneri vulcaniche che ancora persiste sui paesi centro-settentrionali. I tre operatori di Emergency liberati ieri rientreranno in Italia in giornata. Le accuse nei loro confronti sono cadute. Sono stati 9 giorni terribili, ha detto uno dei tre, Marco Garatti, ma la nostra reputazione e quella di Emergency sono intatte. Infine, per il calcio, la Roma vince il derby con la Lazio 2-1 e riconquista la testa della classifica con un punto sull'Inter. Purtroppo incidenti a fine gara, un tifoso anche accoltellato alla gola in gravi condizioni. Nel pomeriggio invece perde il Milan a Genova con la Sampdoria ed esce dalla corsa scudetto. Alle 8.34 minuti, allora, oggi parliamo di politica nel nostro sondaggio, quello che succede all'interno del PDL. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, vi chiediamo semplicemente, state con Berlusconi o con Fini? In questo dibattito molto serrato che c'è all'interno del Popolo della Libertà, il 57% sta con Fini, il 43% con Berlusconi al momento, ma dovete votare su radio24.it, bianco o nero. Nell'ultima ora ne sono arrivati 1000 voti, era cambiata, Fini era nettamente in vantaggio, era l'80%, adesso 57 Fini e 43 Berlusconi, ma insomma non è un voto. È un sondaggio che facciamo aperto a tutti, ne parliamo con esponenti politici. Allora, l'onorevole Flavia Perina, buongiorno e ben ritrovata, direttore del Secolo d'Italia, tra l'altro. Saluto invece per il PDL, l'anima, se si può dire così, non so se li posso già definire, l'anima finiana, l'anima berlusconiana, Giorgio Straquadagno, buongiorno. Buongiorno, popolo... non so, queste definizioni lasciano il tempo che trovano. Va bene, c'è anche il nostro Stefano Folli, buongiorno Stefano, ben ritrovato. Buongiorno. Allora, Flavia Perina, le chiedo, lei è definita tra i finiani doc, allora non so se sono definizioni che non si possono fare, dice Straquadagno, lasciano il tempo che trovano, però insomma il dibattito è aperto. Le semplificazioni giornalistiche alla fine sono utili, se no la gente non capisce niente. Ah, sono utili, va bene. Allora, che succede giovedì? O meglio, che dove vanno i finiani? Dove andate? Perché insomma, questo si chiede chi segue la politica tutti i giorni. Io credo che giovedì finalmente si arriva appunto a quello che noi abbiamo definito un gioco a carte scoperte. Parlerà Fini, parlerà Berlusconi, metteranno le carte sul tavolo e non ci sarà più spazio appunto per le mediazioni di tipo giornalistico. Il partito sarà chiamato ad un dibattito di qualità finalmente a un anno dalla fondazione sui temi che sono al centro della riflessione oggi, il rapporto con la Lega, le riforme, chi debba essere il traino di questa stagione di riforme che sicuramente va aperta, e quindi penso che sarà una grande prova di democrazia interna. Qualcuno ha scritto, siete partiti, o meglio, molti dei finiani sono partiti lancia in resta, poi vedendo che i numeri non sono più così, qualcun altro si sta già tirando indietro. Ma veramente questo lo ha scritto il giornale, che è il giornale di Vittorio Feltri, intendo dire. Sì. Insomma, è il giornale della famiglia Berlusconi, è ovvio che tende ad argomentare questo tipo di tesi. Che martella duro, da qualche giorno. Loro è libero. Ma sì, non da qualche giorno, sono da tanti mesi. Insomma, tra l'altro, da quel che si dice, è un tipo di polemica che fa salire le vendite, quindi i giornali si regolano. Mm. Vediamo se straguadagno su questo. Secondo lei, invece, che succede giovedì? Intanto succede il fatto che questa direzione era già convocata prima dell'incontro tra Berlusconi e Fini, durante il quale sarebbe stata annunciata l'intenzione di costituire addirittura un gruppo parlamentare distinto, cioè di dare luogo a una scissione nel partito. E quindi non vedo per quale motivo, come dire, si debba pensare che finalmente ci sia un dibattito. Il dibattito c'è sempre stato da quando abbiamo iniziato il congresso. Il problema è che il mio stupore in tutta questa vicenda è che è un partito che da quando è nato ha vinto tutte le elezioni a cui ha partecipato, eppure c'è qualcosa da parte di qualcuno che non funzionerebbe. E si attestano, per esempio, argomenti che io credo del tutto infondati, tipo la subalternità alla Lega, pensi proprio nel giorno in cui invece la Lega, che aveva rivendicato per sé nuovamente il Ministero per l'Agricoltura, deve riconoscere degli accordi presi in precedenza e cedere il passo a un esponente del PDL come Giancarlo Galan. Quindi, come dire, io trovo molta pretestuosità in questo. Sta buttando molta acqua sul fuoco, ma per carità, non che ci sia fuoco, non che si debba alimentare il fuoco, però abbiamo visto, insomma, le dichiarazioni in questi giorni. Non penso che i giornali siano solo pieni, soprattutto i giornali, come diceva Flavia Perina, giustamente, di centrodestra, orientati più vicino al governo, no? Straguadagno, il giornale, ma Libero, che dicono... I giornali fanno il loro mestiere. Perché qui noi hanno scritto se ne vada Fini, meglio così. Sì, ma vede, la collega Perina ha detto che il giornale della famiglia Berlusconi per questo tiene questa linea politica. Mi permetto di obiettare che Libero, che è il giornale edito da un editore che è nostro collega parlamentare ed è stato proposto alla elezione dal partito di Fini, cioè dall'Alleanza Nazionale, tiene la stessa linea. Allora, perché dovremmo cercare di ricondurre alla proprietà gli orientamenti e le opinioni dei direttori dei giornali? Le proprietà al massimo scelgono i direttori, poi i direttori fanno le loro linee, e prendersela con i giornali mi sembra un po' fuori luogo. Allora, io voglio far ascoltare, nell'introdurre Stefano Folli, quello che è successo e che ha avuto una grande eco poi i giorni successivi sui giornali, venerdì in TV, dove si discuteva di queste cose. C'erano da una parte Italo Bocchino, Fabio Granata, Adolfo Urso, considerati tra i finiani, dall'altra parte Lupi, vicepresidente della Camera, la Santanchè, considerati invece più vicini all'anima berlusconiana. Che è successo? Tanto che oggi c'è un eco sul giornale, ancora a dire il giornale, per esempio, dice qualcuno starebbe meditando di farla pagare a Italo Bocchino. C'è successo questo scontro, sentite le voci, no? Queste cose le sentivo da Di Pietro, le ho sentite da Travaglio e adesso le sento basta, da te. Basta, Lupi, se basta. Hai un problema... E basta! Ma basta cosa? Lupi! Ma cosa stai ascolta dicendo? Ascolta me, Lupi! No, calma! Ascolta me ora! Guarda che non sei in AN o nel vecchio MSI, Ora ascolta calma, me! Condividi quel titolo del giornale? Lupi e Urso! Non condivido il titolo... Parliamo di cose concrete, non delle parole che basta non dirlo a nessuno! Ascolta condividi quel titolo del giornale? Mi fai una domanda e ti rispondo! Non condivido... Condividi quel titolo del giornale? Mi stai rispondendo un attimo! Ma sei fuso? Ma sei un po' nervoso, eh? Allora ripristiniamo un po' di calma. No, ma sembri tu nervoso. No. Allora, sì. Domanda di un nervoso. Condivide che abbiamo matti, toccato vabbè. Comunione con per vite e nervoso. Italo. Allora, forse è meglio che vai presto. Allora, ti abbiamo toccato comunione e liberazione, dicono a Lupi, e sei nervoso, e Lupi, forse è meglio che te ne vai via. Allora, Stefano Folli, poi per carità, le voci, quando magari in un dibattito ci si può anche infervorare e tutto passa, però qualcuno ha letto questo anche come dire, almeno il divorzio dal punto di vista televisivo dei dibattiti in alcuni ambienti c'è già. No, ma se dobbiamo stare a questo scontro televisivo, che vale quello che vale naturalmente, però è un'immagine devastante, diciamo, del dibattito interno al PDL. Se dobbiamo stare a questo, l'immagine che si trasmette è pessima ed è una sconfitta per tutti i contendenti. Quindi se si voleva trasmettere un messaggio di debolezza, certamente questo dibattito è esattamente questo, è una sensazione di un partito che sta facendo il danno, si sta autodanneggiando, e a tutto vantaggio naturalmente della Lega. Questo è anche secondo me un po' il limite della posizione di Fini in questo momento. Aver innescato questo dibattito in questo momento, in questi termini, finisce per danneggiare il PDL a vantaggio di quello che dovrebbe essere il concorrente che si vuole invece limitare nel suo reale espansionismo, perché non è soltanto la questione del Ministero dell'Agricoltura, come diceva l'onorevole Straguadagno, è che Fini, da questo punto di vista, da un punto di vista generale, ha posto dei problemi che sono veri, ha posto un problema della visione istituzionale, ha posto il problema del ruolo del Parlamento, della legge elettorale, tutti problemi di fondo che non sono stati, a mio avviso, sufficientemente dibattuti all'interno del partito di maggioranza. A mio avviso l'ha posti anche male, però l'ha posti in un momento sbagliato, forse certe questioni andavano poste anche prima delle elezioni in un modo diverso, prima per esempio di permettere alla Lega di avere tutti i governatori del nord, cioè del Piemonte e del Veneto. Una serie di questioni sono state poste secondo me un po' male adesso. Qual è la soluzione del problema? Sul piano personale mi sembra che i rapporti siano molto compromessi. Sul piano politico una scissione del gruppo Finiano, perché di questo si tratterebbe, probabilmente sarebbe un grande errore, probabilmente c'è margine per arrivare ad affrontare alcuni problemi, ma senza spezzare questo partito, perché non vedo quale sia francamente a questo punto l'interesse di tutti arrivare a una scissione, anche l'interesse naturalmente dei Finiani, mentre credo che la forza anche del gruppo di Fini, delle idee che vuole propugnare, sarebbe diciamo più solida, sarebbe più incisiva se queste idee fossero difese all'interno del PDL. Sì, ciò che lascia un po' perplessi, vorrei, onorevole Perina, è il tempismo. Effettivamente non è da poco che si pongono questi problemi da parte dei Fini e dei Finiani, però proprio adesso, subito dopo la vittoria delle elezioni, nel senso la vittoria delle regionali, certo c'è stata la grande affermazione della Lega, ma proprio adesso, come scriveva anche Stefano Folli 2 giorni fa, insomma, perché fare questa mossa che potrebbe portare a una sorta di suicidio di un partito che ha dimostrato anche le ultime elezioni insomma di vincere almeno nei numeri come coalizione? Ma avete perfettamente ragione, i tempi sono la sostanza. Noi nell'arco di 48 ore, proprio guardando a quella che è la cronologia dei fatti, si è assistito a una serie di avvenimenti che hanno lasciato un po' interdetti tutti. Innanzitutto questo avvio del tema delle riforme istituzionali fatto con una bozza di qualche foglio portata da Calderoli e poi portata addirittura al Capo dello Stato senza che ci fosse stato un dibattito preventivo all'interno del PDL, che comunque resta il partito di maggioranza relativa, anche se la Lega ha avuto un indubbio risultato elettorale. Poi le aperte rivendicazioni leghiste nel 2013, un premier leghista, vogliamo le banche del nord, vogliamo il sindaco di Milano. E questa è stata un'escalation nell'arco di pochissimi giorni che ha indotto un po' tutti a pensare che fosse il momento di porre questo problema con forza, prima che lo scivolamento degli eventi ci portasse a discutere una riforma istituzionale che non si sa da dove nasce, perché non ne ha discusso il partito e è apparsa almeno come gestita in esclusiva dai vertici leghisti. E dopodiché a programmare questa importantissima coda di legislatura, perché questo è uno spazio importantissimo per il Paese, non per Fini o per il PDL o per la Lega, è uno spazio cruciale per il Paese, ad affrontare questo scorcio di legislatura determinante sulla base così di una logica, insomma, un po' la via al parroco, dove chi si alza per primo fa le roadmap, i programmi e addirittura i testi di riforma costituzionale. Allora, questa è la tempistica che ha indotto a muoversi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Eccoci qua, siccome siamo molto interattivi, siamo al 50%, sono già 3.000 i voti, 50% Berlusconi, 50% Fini, ma sta molto cambiando la situazione, questo è il nostro sondaggio. Giorgio Stracquadagno, allora, il problema non è questione che c'era un ministero leghista e adesso con la vittoria di Zaia non c'è più. Io parlo di fatti e la collega Perina parla di propaganda. Addirittura? Sì, perché ha fatto riferimento a una serie di fatti che sono stati tutti di iniziativa propagandistica da parte della Lega, che ha cavalcato con la comunicazione una sua vittoria. Sulla famosa bozza portata da Calderoli al capo dello Stato, c'è stata una nota del Presidente del Consiglio dove ha detto che l'iniziativa è stata un'iniziativa personale e in questa bozza lui non ha mai detto di averla né discussa né condivisa. E lo stesso Bossi, la sera in un comizio a Vigevano, ha detto che gli era stata appena mostrata Berlusconi ed era tutto da discutere. Quindi si stanno facendo polemiche pretestuose. La verità è questa, e lo scrivo oggi in un editoriale sul Predellino, lo scrive Alfonso Piscitelli, che una parte del PDL e in particolare Gianfranco Fini pensava e puntava alla sconfitta elettorale nelle regionali per cercare di imprimere una svolta in un'altra direzione al partito. Addirittura, cioè sperava, questa sconfitta sperava di perdere. Non è accaduta, anche in virtù del fatto che è sceso in campo Berlusconi ed è riuscito a far eleggere anche la presidente Polverini nel Lazio, nonostante mancasse la lista e nonostante non ci fosse la lista a Roma del PDL, è riuscito a garantire l'elezione di Cota con una campagna in Piemonte e quindi a conquistare quelle che sembravano fino all'ultimo momento gli avamposti più difficili da conquistare, e a questo punto però si è proseguito in un'iniziativa di tipo politico che non prendeva atto di questa mutata condizione. Però lei dice, cioè, che Fini la guida berlusconiana del partito e l'alleanza con la Lega rendono il centrodestra vincente, mentre la linea finiana fa perdere voti al PDL e la fa guadagnare alla Lega. Glielo spiego in un esempio semplice. Sì. Se un elettore di centrodestra ha alcune convinzioni sull'immigrazione e la cittadinanza e il voto agli immigrati, che sono convinzioni che il centrodestra ha sempre propugnato, nel momento in cui si trova che il Presidente della Camera fa opzioni del tutto diverse e la collega Perina firma delle leggi assieme all'ex leader del PD Walter Veltroni, che cosa fa? Non potendo votare diversamente, perché se vota PDL rivota Fini oltre a votare Berlusconi, a quel punto vota Bossi che sta nella coalizione. Insomma, e quindi dà comunque un voto a Berlusconi, ma funziona la posizione di Fini. Fermi qui, Stracquadagno, perché Perina ha detto speravate di perdere questa e non solo, e con questo atteggiamento fate perdere il PDL voti e li date alla Lega, insomma il ribaltamento della questione, dice Stracquadagno. La parola folli che credo che tocchi a lui. Volevo prima, siccome l'ha tirata in ballo, insomma l'accusa di perdere. Io vorrei soltanto osservare ciò che è sotto gli occhi di tutti. Uno dei motivi per cui si è raggiunta la vittoria nel Lazio, in Campania e anche in Calabria è stata l'intesa con l'UDC, che è stata fortissimamente voluta da Fini, quando le indicazioni che arrivavano da Berlusconi erano del tutto diverse, perché si era detto con l'UDC non si fanno accordi in nessun lato d'Italia. Una persona che gioca a perdere fa un accordo politico, si assume la responsabilità anche con grandi frizioni, perché anche allora io ricordo i titoli dei giornali dell'area di centrodestra dopo l'incontro scontro tra Fini e Casini che determinò queste alleanze. Una persona che gioca a perdere fa un'intesa politica che ha determinato in qualche modo la vittoria. Non credo. Faccio osservare tra l'altro che due dei candidati che hanno consegnato la vittoria al centrodestra, cioè Renata Polverini e in Calabria Peppe Scopelliti, arrivano dall'area di Aenna e probabilmente se si fosse candidata alla Poli Bortone in Puglia forse avremmo avuto una prospettiva anche lì in Puglia. Stefano Folli, la lettura di Straguadagno è molto molto dura, molto netta, addirittura i finiani che speravano di perdere invece... No, molto dura, capisco che avviene nel clima di questo confronto così esasperato, non penso che Fini abbia lavorato per perdere ovviamente, però penso che ci siano effettivamente dei problemi molto seri all'interno del PDL, questo è evidente, e io penso che la soluzione migliore sia che a un certo punto si vada all'interno del partito a un chiarimento che crei una sorta di minoranza, cioè Fini è chiaro che tiene una posizione di minoranza dentro il PDL ormai, penso che commetterebbe un grande errore a uscire, a creare questi gruppi separati che darebbero una scissione, penso che le sue tesi, che sono tesi su molti punti importanti e di cui Berlusconi farebbe bene a tener conto, soprattutto sul piano diciamo della visione delle istituzioni, possono essere difese magari creando una sorta di minoranza all'interno del PDL e su questo confrontandosi, però restando all'interno di questo partito, altrimenti si esce dallo schema su cui si è fatta politica in questi anni. Vediamo se qualcuno ci avete chiamato in molti all'800 24 00 24, siate rapidissimi in conclusione. Lorenzo dalla provincia di Trento, buongiorno. Alessandro, buongiorno a lei. Sì, io sto decisamente con Berlusconi, sì? E consiglio anche a Gianfranco Fini di tentare un'altra carriera, magari al segretario del PD, viste le sue ultime posizioni e visto che il PD ne ha disperato bisogno. Mi piace la provocazione, ma la prendo come tale. Sabrina da Roma, buongiorno. Sabrina, buongiorno. Che dice? Buongiorno a tutti, sono perfettamente d'accordo. Io ero una elettrice di AN, adoravo Fini, vivevo per lui, però devo essere sincera, negli ultimi anni non mi sento più rappresentata da tutte le sue dichiarazioni. È, a mio avviso, è distruttivo purtroppo negli ultimi anni, e chiaramente come elettore di centrodestra, però ecco, di origine di AN, mi sento più rappresentata da un Gasparri, un Ignazio La Russa che da Fini. E poi vorrei dire un'altra cosa, non capisco questa sua ultima dichiarazione per un motivo: all'interno di Alleanza Nazionale già c'erano tre forti correnti. Quale dichiarazione? Quest'ultima dichiarazione quale? No, cioè appunto queste ultime posizioni. La posizione. Le posizioni, sì. Perché proprio per l'atteggiamento diciamo di Fini si erano formate all'interno di Alleanza Nazionale tre forti correnti che lo contrastavano. Insomma, è una finale delusa, lei, delusa dello sviluppo politico della carriera. Sì, sì, anche perché fa tanto, posso dire una cosa? Sì, ecco, tre secondi. Storace era uscito, l'Alemanno era uscita, la Santanchè era uscita sempre per motivi confini, quindi ora tranne Bocchino, D'Urso e qualcun altro, sinceramente consiglio a Fini di riprendere un attimo, cioè di fermarsi un attimo e riflettere. Va bene, grazie politica. Sabrina, con lei devo concludere ringraziando tutti, ci fermiamo. Il sondaggio, c'è stato un sorpasso berlusconiano, al momento il 46 sta con Fini, il 54 con Berlusconi. Continuate a votare su radio24.it. Sara Spreafico in redazione e Peter Bescapè in regia, anche loro vi salutano. Bianco o nero è tra radio24.it. A domattina.